Story, quando cambia. Quanto ti vorrei, apro le mie mani per riceverti, ma un pensiero mi porta via mentre tu mi chiudi per differenti. Thank you.

Thank you.